Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi vengono anche da Mire Locchetti e Isotta Scena, che sono in redazione, Gianmarco Ferronato di là dal vetro. Commenti, domande e critiche fatelo al 349-238-6666, su Twitter Nessun luogo 24, su Facebook Nessun luogo lontano trattino Radio 24, e se non siete troppo sintetici amate scrivere, allora la mail è nessun luogo @radio24.it. Lo avete sentito anche dal GR, situazione surriscaldata, incandescente in Egitto, soprattutto al Cairo, è da lì che partiamo quest'oggi. Muslim Brotherhood supporters of ousted Egyptian President Mohamed Morsi have dug in, saying they're determined not to end their protests in Cairo as authorities threaten to crack down on their activities. Egypt's security forces move in to break up the sit-in at Nakhda Square near Cairo University. Using tear gas, riot gear and other force, officers drag protesters away. Staff at a field hospital in Nasser City were overwhelmed with casualties after the Egyptian army had opened fire on protesters just before dawn. E così, dopo aver annunciato e aver ritardato l'operazione di sgombero dei due grossi sit-in dei sostenitori di Promorsi, le forze di sicurezza egiziane sono entrati nei due accampamenti e sono entrati pesantemente, hanno usato blindati, hanno usato scavatrici. E il bilancio, quello è il primo punto di domanda, perché è veramente difficile fare la conta delle vittime, che sicuramente vi sono state. Il Ministero dell'Interno dice 7 morti e 8 feriti, i Fratelli Musulmani dicono almeno 200 morti. Bisogna affidarsi chiaramente ai giornalisti stranieri presenti sul posto o a quei giornalisti egiziani che lavorano per media indipendenti, perché ovviamente sia il Ministero dell'Interno che i Fratelli Musulmani tendono a diffondere cifre dal sapore propagandistico. Alistair Beach dell'Independent ha visto e ha postato su Twitter almeno 46 corpi nell'ospedale improvvisato proprio lì a Rabaa, un ospedale da campo. Quello che preoccupa adesso è la possibile escalation di violenza. Rabaa è completamente accerchiata dalle forze di sicurezza. Guardavo la BBC prima, il loro inviato non riesce più ad accedere alla piazza, solo chi era dentro prima sta riuscendo in qualche modo a raccontare quello che sta accadendo. In tutto ciò, treni fermi, banche chiuse, c'è un punto di domanda sull'aeroporto del Cairo che al momento mi risulta aperto, ma non è detto che venga chiuso per ragioni di sicurezza. L'ambasciata USA chiude fra un'ora. L'ambasciata italiana ha consigliato a tutti i connazionali di stare lontani da qualsiasi assembramento. La situazione è estremamente pericolosa. Altri giornalisti hanno postato foto di sniper, di cecchini sui tetti, cecchini delle forze di sicurezza che avrebbero sparato sui manifestanti. A scorrere i Twitter dei sostenitori di Morsi è abbastanza facile. L'hashtag forse più efficace è Rabaa o Rabaa Massacre, andate a vedere e insomma le foto sono sicuramente scioccanti. Molto difficile, dicevo, però verificare la conta dei morti, anche verificare chi ha aperto il fuoco per primo, se i Fratelli Musulmani hanno risposto. Il Ministero dell'Interno ha detto che avrebbe anche trovato e ha mostrato delle foto un piccolo arsenale lì vicino a Rabaa, si vedono fucili Kalashnikov fra le altre cose. Situazione estremamente estremamente confusa in queste ore lì al Cairo. E allora proprio al Cairo vi porto con la voce, con gli scatti di Kilf Cheney, è un fotografo indipendente, scatta fra gli altri per il Wall Street Journal, poi posteremo sulla pagina Facebook il suo sito, sono sicuro che nei prossimi giorni potrete vedere le immagini anche di queste drammatiche ore. Ascoltiamo insieme la voce, la prima domanda che ho fatto a Cliff, che ho raggiunto fra l'altro dopo una sparatoria. Lui ha dovuto scappare a gambe levate. È se è vero che la polizia ha sparato sui sostenitori di Morsi. Ascoltiamo. Yes, well, what I've been actually was reporting from an area north of one of the sit-ins where the Muslim Brotherhood were reconvening after their... Sì, lui dice, è vero, la polizia ha sparato sui sostenitori Morsi nella zona in cui ero io. Da quello che ho potuto vedere, ero nella zona nord della città dove c'era uno dei due raduni, e ho visto anche le foto dei miei colleghi. Tra reporter si usa mostrarsi le foto, magari in momenti di pausa ci si racconta che cosa si è riuscito a catturare, per cercare anche di confermare, di incrociare le fonti e le notizie. E dice sì, hanno sparato a molte persone. Ho visto una foto con una quarantina di morti per colpi di arma da fuoco sul pavimento di uno degli ospedali della città. Le cose, dice Cliff Cheney, si sono messe male. Things are definitely dangerous on the streets for foreigners and for journalists. E dice è pericoloso anche per noi reporter, per giornalisti stranieri. Molti miei colleghi hanno avuto problemi a fare il loro lavoro. Alcuni sono stati arrestati, sono state sequestrate le schede delle macchine fotografiche digitali, è stato detto loro di non fare domande, alcuni sono stati attaccati, ad alcuni anche sono state sequestrate le macchine fotografiche. Le strade, dice Cheney, sono molto pericolose per noi reporter stranieri, perché entrambi i fronti stanno cercando di assumere il controllo della situazione e cercano di raccontare la propria versione dei fatti. In questo momento entrambi i lati sono angosciati, entrambe le fazioni sono angosciate e infastidite per le possibili influenze straniere sulla politica interna egiziana. E come potete ben capire, cari ascoltatori, la presenza di un reporter straniero, di una voce indipendente, è in questo momento fumo negli occhi per loro. Poi gli ho chiesto se ha visto armi nelle mani dei fratelli musulmani. Lui dice no, non li ho visti. E poi racconta di questa sparatoria in cui è stato coinvolto. Era in un punto all'aperto nella piazza, la polizia ha caricato, lui si è riparato e ha sentito sparare colpi d'arma da fuoco, ma dice non è chiaro, non posso dire chi abbia sparato, se l'esercito per primo o se i fratelli musulmani in risposta. È successo fuori dalla nostra visuale. L'ultima domanda che gli ho fatto riguarda, ed è una domanda un po' forse più da analista che da fotografo sul campo, ma lì si ha la sensazione, si ha il polso, e gli ho chiesto, ma senti Cliff, è possibile secondo te una guerra civile? Vedi una tensione crescente? E lui dice, beh, la guerra civile forse richiede una maggiore organizzazione di quella che ho visto qui sulle piazze egiziane, ma sicuramente possiamo dire che con questa repressione del governo e la conseguente reazione dei sostenitori di Morsi ci sarà un'escalation nelle violenze. Abbiamo un quadro un po' incompleto, chiude Cheney, ma sicuramente è una situazione molto preoccupante per chiunque si trovi qui a seguire la vicenda. Ad aggiungere olio sul fuoco, ci sono notizie di attacchi alle chiese copte sia nell'Alto Egitto che in alcuni quartieri del Cairo, come rappresaglia da parte di alcune fazioni di fratelli musulmani contro appunto la componente cristiana copta del Cairo. E poi altre notizie di cui sto cercando conferma: sarebbe morto, colpito alla testa da un cecchino, l'inviato di Gulf News. E nel suo ultimo tweet avrebbe proprio twittato: ho visto i cecchini delle forze di sicurezza sui tetti delle case attorno a Rabah. Versione un po' diversa, un po' contrastante, quella invece di Fatima Naout, reporter di Al-Masri Al-Ayoum, che in verità io ho sentito un'ora e mezzo fa, quindi forse anche le informazioni in suo possesso non erano così complete come quelle di Cliff Cheney. Vi faccio sentire un estratto della chiacchierata che ho fatto con lei. So far I didn't see such violence like you speak about, but it's a must. Lei dice, fino adesso io non ho visto tutta questa violenza di cui mi parli tu nelle strade. Certo è vero che i manifestanti pro-Morsi hanno molte armi pesanti, intendo. E quindi come può finire, dice, una manifestazione in cui sono presenti tutte queste armi senza alcuna violenza? È impossibile. heavy weapons. Fatima Naout di Al-Masri al-Yum dice: da parte di esercito e polizia non è stato esploso neanche un proiettile, ne sono sicura. But from our side, from the side of army and police, there is no just one pellet. I'm sure of that. I sostenitori, dice, dei fratelli musulmani reagiranno a questa repressione con ancora più violenza, ancora più disastri. Lei dice: non amano l'Egitto, non l'hanno mai amato e mi aspetto molte cose brutte dal mio paese nel futuro immediato, ma, dice, sono sicura che ce la faremo. Insomma, sentite anche le sue parole, la sua posizione politica è evidente. Lei dice: i sostenitori di Morsi attaccano chiese continuamente in ogni posto. Ne ho scritto fra l'altro questa settimana sul mio giornale. Gli estremisti e i fratelli musulmani non sanno cosa fare, dice che sono rifiutati dalla società, per cui reagiscono attaccando cristiani, copti e anche i sufi. Muslim and Muslim Brotherhood find themselves without any role, without any lovers everywhere, and they are rejected from the society. E insomma, conclude dicendo: tutti gli atti violenti sono avvenuti per mano dei sostenitori di Morsi e non da parte delle forze di sicurezza. Ora, non per essere retorico, ma da quello che vedo, da quello che diceva Cliff, dai tweet, dalle immagini anche di Al Jazeera, difficile sostenere che le forze di sicurezza non abbiano aperto il fuoco, davvero, davvero difficile. Però, ripeto, è una situazione estremamente confusa, anche i reporter sul posto possono che raccontare una fetta del grande racconto, di questo drammatico racconto di queste ore egiziane, ed è anche difficile verificare le fonti. Come dicevo all'inizio, entrambe le parti hanno il loro interesse a emanare i loro bollettini di guerra, e la disparità anche dei numeri deriva proprio da questo. La prima vittima della guerra è la verità, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, verissimo, forse agonizzante in queste ore la verità, fatica a uscire nel caos delle informazioni, delle foto e anche delle informazioni che viaggiano sui social network così facilmente strumentalizzabile, ma i bravi reporter che sono lì al Cairo in questo momento sono certo nelle prossime ore faranno chiarezza su quello che sta accadendo. E poi un altro ascoltatore: assurdo il silenzio del nostro governo, Morsi era stato eletto democraticamente, che piaccia o no la Farnesina per il momento tace, leggendo le agenzie. Chi non tace è il Ministero degli Esteri tedesco, che per bocca del ministro Westerwelle ha lanciato un appello a tutte le forze politiche a impedire escalation della violenza. Si è fatta sentire anche la Francia, che deplora fortemente le violenze al Cairo. Vedremo se anche le voci diplomatiche contribuiranno a rasserenare, a ristabilizzare la situazione egiziana. Questa era la prima pagina di Nessun Luogo Lontano di quest'oggi. Adesso cambiamo decisamente argomento e cambiamo anche continente. Andiamo in Argentina. En Argentina hubo un triunfo agridulce para el oficialismo. Los resultados de las elecciones primarias del domingo dieron como ganador a nivel nacional al Frente para la Victoria, el partido liderado por la presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, la oposición obtuvo victorias en distritos clave, entre ellos la provincia de Buenos Aires, que concentra el 37% del total del electorado. En la capital argentina, el principal candidato del oficialismo, Martín Insaurralde, obtenía el 29% de los votos, mientras que Sergio Massa, por el movimiento opositor Frente Renovador, se imponía. E andiamo in Argentina, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, non perché questa sera c'è la grande amichevole che tanto imbarazzo calcistico ha suscitato nel Papa, che ha detto non so per chi ti fare. Perché un'altra partita politica si è giocata nei giorni scorsi. Sono state le primarie per chi potrebbe contendere alla Kirchner la leadership in elezioni che si svolgeranno fra ben 2 anni. Però, insomma, i muscoli politicamente si scaldano. E allora, con Roberto Darin, a cui do il mio benvenuto e il mio buongiorno. Roberto. Buongiorno a voi. Eccolo, ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano. Lui, che tutta Sud America conosce bene, ma in particolare l'Argentina. Vorrei chiedere innanzitutto un ritratto di questo Sergio Massa. Forse sbaglio la pronuncia, correggimi. No, è giusto. Sergio, lui è di origine italiana, Sergio lo si può pronunciare anche all'italiana, Sergio in spagnolo. Ottimo, allora lo pronuncio alla spagnola. Sergio Massa, chi è questo sfidante della Kirchner? Dobbiamo ricordare che a ottobre vi saranno le politiche, quindi forse, diciamo, parlarne adesso non è così prematuro. No, lui è un funzionario se è stato lanciato proprio dal governo di Néstor Kirchner, il marito di Cristina, quindi l'ex presidente, in quella che poi è diventata la coppia presidenziale, perché prima è stato presidente Néstor e poi la moglie Cristina. E è stato lanciato da loro sostanzialmente. E si occupava prima dell'equivalente del nostro INPS e quindi era un funzionario con una visibilità peraltro modesta, ma aveva raccolto un certo numero di voti e aveva fatto un buon lavoro. Quindi la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner lo ha poi lanciato in posizioni di maggior rilievo all'interno del Ministero degli Interni e lui ha acquisito una certa notorietà e un certo prestigio. Ma poi le cose nella politica possono cambiare anche in modo repentino e lui ha abbandonato la casacca del partito di Cristina e si è invece associato all'opposizione, quindi ha cambiato schieramento. Entrambi peronisti perché in Argentina la stragrande maggioranza dei partiti si rifanno al peronismo, questo movimento politico cangiante e sempre mutevole. Roberto, prima di capire meglio quanto può influire sul futuro del paese, ascoltiamo insieme la fotografia del grande paese sudamericano. Crisi dei tango bond, così è stato denominato il dissesto economico argentino che ha portato a uno dei default più grandi della storia. L'apice, raggiunto nel dicembre 2001, ha visto il paese di fronte a una perdita economica pari al meno 14,7%, con un tasso di disoccupazione oltre il 20% e più del 60% della popolazione sotto la soglia della povertà. Assalti ai supermercati, alle banche, scontri violenti tra dimostranti e polizia. Così appariva Buenos Aires all'indomani delle dimissioni dell'allora presidente Federico Ramón Puerta. Le misure immediate prese dal governo videro una legge che vietava di ritirare dal proprio conto bancario più di 1.000 pesos al mese, poco meno di 200 euro, e nel 2002 l'abbandono del Currency Board, approvato nel 91, che fissava rigidamente il tasso di cambio tra peso, la moneta argentina e dollaro. L'effetto diretto a questi provvedimenti fu la svalutazione con conseguente inflazione della valuta locale, che raggiunse il livello record del 41%. Il 2003 fu l'anno della ripresa con un Néstor Kirchner presidente che diede esempio di grande coraggio riuscendo a portare il paese al miracolo economico. Oltre a doverose misure di austerità, infatti, Kirchner volle aumentare gli stipendi delle fasce più povere, istituì leggi che evitassero lo sfratto e agevolassero i mutui sulle case per le classi meno abbienti e ottenne una riduzione del debito pubblico grazie a una lotta contro il Fondo Monetario Internazionale. Ma i grandiosi risultati della politica kirchneriana dal 2007, portati avanti dalla moglie Cristina Fernandez, sono da imputare anche alle grandi risorse di cui il paese dispone: petrolio, mais, farina e grano in primis. Ad oggi, però, l'Argentina appare sull'orlo di una nuova crisi finanziaria. Riuscirà il neoeletto alle primarie Sergio Massa a vincere le elezioni e a portare il paese verso una nuova rinascita? Ecco Roberto, ed è la domanda poi che ti giro paro paro, questa figura che sta emergendo, che poi è tutta da testare, no? Anche politicamente, anche a ottobre prossimo, si trova di fronte a una situazione non propriamente rosea. Avrà le capacità? Sarà lui il condottiero di questa Argentina che inizia un po' a naspare forse? Non sappiamo, perché è troppo presto per prefigurare un futuro politico più chiaro. Quello che pare certo è che Cristina Kirchner, la presidenta in carico, continua ad avere una grande popolarità, e quello che non è stato ricordato nella scheda è che dopo il default del 2002 l'Argentina ha, grazie alla svalutazione della sua moneta e a un iniziale buon programma di politica economica, ha saputo poi inanellare dei risultati di tassi di crescita del PIL molto notevoli, vicino all'8-9% per molti anni. Sì. e ciò ha consentito anche un aumento dei consumi notevoli dal 2002 al 2010-2011. Quindi quest'ultima crisi, che indubbiamente sta progressivamente colpendo l'Argentina, arriva sì dopo però una lunga cavalcata, galoppata dell'economia in cui le cose sono andate bene. Quindi Cristina potrebbe riuscire comunque a far valere i risultati che ha raggiunto prima suo marito e poi lei. Rimangono delle questioni pendenti con i possessori di Tango Bond, che non hanno accettato le condizioni di offerta proposte dal governo, però sono molto pochi e va ricordato anche qui che tutti coloro che hanno accettato lo swap e l'offerta del governo argentino hanno portato a casa tra il 50 e l'80% dei titoli in default, quindi malissimo non è andata, è andata peggio agli italiani che avevano Parmalat o Cirio. Questo per dire che è ancora tutto da definire il futuro dell'Argentina, potrebbe esserci un aggravamento della crisi ma anche un rimbalzino. Non va dimenticato che l'Argentina produce prodotti alimentari per 400 milioni di persone e ha invece un numero di abitanti poco superiore ai 40 milioni, quindi questo è un vantaggio che nessun paese europeo possiede. Sì. Da qui a stabilire se il governo farà bene o farà male, questo è un altro discorso, però loro hanno comunque un bacino di risorse naturali, in questo caso agroalimentari, che dà loro una forza notevole. Certo. No, Roberto, non voglio farti sfregare troppo, no, la sfera di cristallo, però su questo sì, Italia-Argentina, fammi un pronostico su quello che è più facile. Un pronostico su quello. No, dice il calcio. Non io ho vissuto in Argentina 5 anni, quindi per una parte del mio cuore resta lì. Però dirò come il Papa, che è difficile fare il tifo in situazioni come questa. No, tiferò Italia. Tiferò Italia e spero che vinca, però non mi sembra che l'Argentina in questo momento sia abbastanza forte, quindi non sarà facile. Va bene, va bene. Grazie Roberto Darini per la tua analisi e anche la tua previsione calcistica. Buona giornata e buon lavoro. A prestissimo. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. E dalla partita calcistica, partita di calcio, Italia-Argentina, a quella invece tutta politica e tutta argentina che ha iniziato a prendere corpo lì a Buenos Aires. E dicevo, il primo appuntamento saranno le politiche ad ottobre, poi fra 2 anni le presidenziali, per capire chi andrà a guidare grandissimo paese sudamericano. Adesso dobbiamo voltare pagina perché c'è un altro tema che mi sta a cuore. Voglio tornare in Russia, voglio tornare a Mosca. Почти 1500 нелегальных мигрантов были задержаны во время масштабной спецоперации в Москве. Рейды проходят уже несколько дней. Проверки инициировали после массовой драки на Матвеевской улице. This morning, Moscow police detained more than 1,000 illegal migrants at the Sadovod market. Mass arrests followed the incident at the Matveevsky market. That was one that saw a police officer suffering a serious injury. The launched operation against migrants in Moscow made authorities to keep a huge number of illegal migrants in a tent camp. Well, this camp has already provoked the diplomatic scandal between Russia and Vietnam. And now. E come avete sentito, la cronaca moscovita ci consegna questa massiccia operazione di polizia nel centro di Mosca, in alcuni mercati moscoviti, dove sono stati compiuti dei raid, degli arresti su immigrati. E poi dopo gli arresti la detenzione di centinaia e centinaia appunto di immigrati in tende che alcuni osservatori hanno detto, insomma, questa sembra una zona di guerra, non è possibile che in pieno centro a Mosca si detengano i migranti sotto una tenda e in questo modo. Di questo giro di vite, fra l'altro, ne scriveva il New York Times giorni fa, ne parleremo tra pochissimo con Lucia Sgueglia, corrispondente da Mosca per Lettera 22 e per l'ANSA. Lucia, intanto buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo è Lontano.

europea, per la sicurezza e la cooperazione in Europa, la Russia sarebbe addirittura il paese con il maggior numero di illegali al mondo. Secondo le cifre ufficiali, gli immigrati in generale sono 11 milioni e la metà sarebbero illegali, da 3 a 4 sarebbero illegali, secondo altre stime invece delle stesse organizzazioni di immigrati gli illegali sarebbero 10 milioni. Quindi immaginatevi, insomma, quale può essere il contesto. La peculiarità della Russia è che molti di questi immigrati sono appunto ex fratelli sovietici, un tempo molto più integrati, oggi anche con il fatto che poi non si insegna più il russo in questi paesi, si stanno sempre più allontanando culturalmente dalla Russia, dalla ex madrepatria, e allo stesso tempo però vengono sempre più qui, appunto con la crisi economica crescente. Comunque questi gomito a gomito nelle città più ricche russe, nelle grandi capitali, ma devo dire anche nel sud, tutta la regione del Volga, e insomma, vedi i russi vivere fianco a fianco, soprattutto nei caucasici, perché appunto confina con il Caucaso, crea dei problemi di convivenza, di cui tra l'altro non si discute ancora, forse a un livello maturo. Sì, dice, non c'è un dibattito che ancora possa portare a delle soluzioni, delle proposte. Grazie, siamo quasi in chiusura. Grazie Lucia Sgueglia, Lettera 22, ANSA. Grazie da Mosca. Grazie per la tua fotografia. Vi faccio sentire brevissimamente, ve lo sintetizzo ancora, Tania Lokshina, a cui ho chiesto cosa chiedono al governo. Lei dice: la prima cosa chiede la cessazione di questa repressione che ha portato all'incarcerazione di migliaia di migranti in quella che è stata un'operazione di stampo etnico. Dice: tutte le persone che non avevano un aspetto slavo, scusate, sono state arrestate per le strade di Mosca. Molte sono in carcere in condizioni degradanti, centinaia di persone che non hanno i mezzi per un avvocato, senza accesso ai traduttori, e che vivono in celle sovraffollate in condizioni di disumani. E poi dice: uno degli aspetti che ci preoccupa maggiormente è l'esistenza di un campo in cui sono stati radunati gli immigrati irregolari o presunti tali nella zona est di Mosca, una tendopoli in tende sovraffollate, senza protezione d'intemperie, senza acqua potabile né acqua calda per lavarsi, non è equipaggiato, non ci sono i requisiti minimi sanitari. Insomma, questa è l'ultimissima fotografia che Human Rights Watch ci consegna su quella precisa situazione di Mosca. Io ho 30 secondi il tempo per salutarvi. E naturalmente i saluti vi vengono anche da Mira Lucchetti, sotto scena in redazione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. L'appuntamento è per la replica questa sera 19:15, domani ore 13:15, quando ancora nessun luogo sarà lontano, con una puntata speciale di Ferragosto. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.